capita di passeggiare per strada o stare a casa, fermo in fissa a pensare a ciò che abbiamo visto e a ciò che si è fatto. E fatto sta che ci esco pazzo. Mi ricordo che da piccolo nel mio quartiere già si mormorava che spaccare fosse il mio mestiere. Ma questa è un'altra storia, non infinita come la saga, ma che fantastica storia è la vita. È a scuola, ma è un ritardo, a meno che non era a casa con Willy e Carlton. Colazione abbondante che ti tira su, con i 5 cereali partivi alla grande anche tu. A volte stavo sulla Rai Park con Dicio, Albero Azzurro e Pingu, prima di Pikachu. Ho seri problemi a ricordare quando mi hanno detto che Dodo non era un animale. Tempo passa, non te ne accorgi, ti giri e poi non ricordi di quanta acqua è passata sotto i ponti, di volti, canzoni e ricordi. E il tempo a volte non passa e passano i giorni. Ti giri e hai foto in mente, ricordi a volte in cassetti, anche se non li forzi, si apriranno. Non ero ancora tipo da blue jeans, no, come i genitori. Guardavo Base High School e giamavo i dormitori femminili, ognuno con i suoi giri. E stavo male se le guarda spiaggia avevano il bikini. Senza patente già viaggiavo con la mente, la macchina parlante era già presente. Giravo con la motoretta stile presidente, il mio sogno realizzato è la gauce, ce l'ho ancora in mente. La radio a cassetta suonava per me Spice Girl, Backstreet Boys, prima e Take That. Non vorrei dire, meglio quel gruppo femminile. Ora mi tocca subire le biberine, ritorno al vinile, se magari che stile. Il digitale era presto per apparire, perdono questa cosa poi non si può sentire. Ma a volte la mia lingua si scaricano le pile. Dura cellulare 3310, dopo lui ne ho cambiati, sì 3310. Di certo Snake non lo sapeva che una mela avrebbe cambiato tutto come Eva. La tecnologia passi da gigante, infatti per un cell camminate non sai quante. Ai giorni nostri siamo arrivati, questo è come l'ho vissuto io, ma penso tanti altri. Ed il tempo passa, non te ne accorgi, ti giri e poi non ricordi di quanta acqua è passata sotto i ponti, di volti, canzoni e ricordi. E il tempo a volte non passa e passano i giorni, ti giri e hai foto in mente, ricordi a volte in cassetti, anche se non li forzi, si apriranno.